Essere e benessere di Nicoletta Carbone. C'è in un tappo di spumante che a mezzanotte in punto salta per aria, magari accompagnato da applausi, un bacio sotto il vischio, fuochi artificiali che si alzano nel cielo. Beh, c'è un anno che è finito e ce n'è uno che sta per arrivare. Di quello appena trascorso conosciamo tutto ciò che di bello e di brutto ha portato nella nostra vita. Per quello che ci aspetta invece c'è l'incognita di ciò che sarà. Come succede ogni anno, questo è tempo di bilanci e di nuovi propositi. Da domani, io voglio smettere di fumare. Questo vizio che mi avvelena è peggio di una nuvola che copre la luna. Nell'istante che mi tuffo nel cielo, come un uccello che prende il volo, è tutto grigio, tutto scolorato, come il giorno che mi sono fumato. Da domani, voglio smettere di bere, voglio piantarla, di fare la spugna, di sentirmi male, non avere vergogna. Con la lente del cannocchiale vedo il mondo che gira sempre tutto uguale, e tu mi dici che si può fermare, ma chi vuoi darlo a bere che non bevo più. Ma questo giorno che deve arrivare in qualche modo mi potrà salvare, e questo giorno che deve arrivare in qualche modo mi salverà. E da domani, io voglio smettere di mangiare. Costa caro questo pezzo di pane, come la metti, sono morto di fame. Che batte la strada come un disperato, in cerca di quello che gli hanno rubato, rubato per gioco, per ragioni di Stato. Più mi mordo il cuore, più mi sento truffato. Che lo si voglia o no, un anno si chiude ed inevitabilmente si tirano le somme di quello che abbiamo fatto, di quello che non siamo riusciti a fare, delle occasioni perse, della fatica, ma anche, perché no, delle soddisfazioni. Anche voi forse lo state facendo, e dato che io credo che questa operazione sia un po' difficile, e io non solo perché ho poca dimestichezza con i numeri, ma ho bisogno proprio di farmi aiutare, ho chiesto aiuto ad un esperto. In linea con noi è tornato a trovarci Alberto Pellai, medico, ricercatore all'Università di Milano e psicoterapeuta. Alberto, bentornato. Ciao Nicoletta, buongiorno a tutti, tanti auguri a tutti. Tanti auguri Alberto, a fine anno un bilancio ci tocca. Io ho un po' paura perché temo sempre di cadere nella trappola di vedere o tutto rosa o tutto, non dico nero, ma grigio. Sì, credo che quello sia proprio un po' il rischio di tutti, cioè di entrare in una cosa così importante come fare il punto della situazione con l'approccio che usiamo genericamente nella vita, per cui fondamentalmente o siamo ottimisti o siamo pessimisti, o vediamo il bicchiere mezzo vuoto o vediamo il bicchiere mezzo pieno. Invece questo è proprio un momento in cui bisogna fare attenzione alle sfumature, andare proprio a prendere tutti i pezzi del puzzle, non solo magari quelli che costruiscono la figura centrale, e analizzando la situazione in tutta la sua complessità fare chiarezza dentro di noi di ciò che è andato bene e di ciò che è andato male per quel che riguarda il passato, ma anche di ciò su cui vogliamo puntare le nostre risorse, i progetti di cambiamento per il tempo che ci sta aspettando, per il futuro insomma. Alberto, noi allora abbiamo pensato insieme di muoverci intorno a delle parole chiave. Sì, credo che questo sia proprio il lavoro che possiamo fare insieme oggi, cioè provare a darci una sorta di griglia di analisi, sì, fare un lavoro quasi da economisti della nostra vita, e utilizzando questa griglia progettare quelle parti di noi che esistono, perché ci sono dentro a tutti, ma che probabilmente lasciamo più frequentemente in silenzio, perché siamo più portati a stare invece in altre zone, quindi andiamo a scoprire quello che è apparentemente invisibile ma c'è e che può portare novità nella nostra vita e proprio nel nostro modo di vedere noi stessi nell'anno che sta per arrivare. Intanto, prima di sentire queste parole chiave, questa sorta di griglia su cui lavoreremo nel corso della nostra puntata, vi ricordo il nostro numero verde che potete utilizzare per fare gli auguri, per dirci i vostri buoni propositi, per dire quello che siete riusciti a realizzare l'anno scorso, quello che vorreste realizzare nell'anno che verrà, 800 24 0024. Andiamo a sentire. Privato e pubblico, dovere e piacere, personale e sociale, emozione e pensiero. Allora Alberto, sembrano delle parole in contraddizione con, no? Privato e pubblico, dovere e piacere, personale e sociale, emozione e pensiero. Ma sì, sono proprio i due estremi di dimensioni della nostra esistenza intorno ai quali ciascuno di noi costruisce la propria identità e proprio struttura il proprio percorso, per cui ho scelto due coppie di termini che sono pubblico e privato e personale e sociale, che riguardano un po' ciò che di noi si vede all'esterno e quindi il nostro ruolo tutte le volte che usciamo dalla porta di casa. E due invece coppie di parole che sono dovere e piacere ed emozioni e pensieri, che riguardano più invece la dimensione del dentro, cioè come noi decidiamo di guardarci allo specchio e di investire sui nostri punti di forza. Quindi dentro di noi e fuori di noi, ma qua dentro allo studio è arrivato il mio amico Oscar Giannino. Vediamo se sta al gioco, se si orienta e che direzione prende. Oscar! Eccolo! Eccolo! Allora Alberto, alla fine forse Oscar ci guadagna una sorta di breve profilo psicologico. Te lo affido. Quattro parole chiave, una griglia. Sono nelle sue mani. Oddio! Allora, ma credo che Oscar non abbia bisogno di essere affidato, ma cioè, nonostante credo che per esempio per Oscar possa, siccome lui è veramente un uomo che ha uno sguardo continuo a 360 gradi sul pubblico, cioè su tutto quello che riguarda il mondo che sta fuori, cerca di indossare il suo paio di occhiali e di mettercelo addosso, per lui appunto una dicotomia molto interessante potrebbe essere l'aspetto pubblico-privato, essere così obbligati a guardare costantemente il mondo che c'è fuori, a volte rende più difficile poi coltivare la dimensione del privato e quindi in qualche modo capire bene chi si è una volta che si è rientrati a casa e si è chiusa la porta di casa, si è dato un giro di chiave nella serratura. E forse l'altro aspetto è che, per quello che intuisco io di Oscar, che è veramente un uomo uno e trino, che è dappertutto, forse una delle sfide per lui potrebbe essere, ma lui ce lo dirà, la contrapposizione tra dovere e piacere, cioè lui è proprio un uomo che deve fare un sacco di cose perché in qualche modo tutti lo vogliono e a volte ci si trova in un percorso dove tutto quello che si deve fare spesso rende quasi impossibile il pensare di fare quello che invece si vuole fare. Allora questa potrebbe essere per lui una sfida per l'anno per il 2012. Oscar, accetti la sfida? No, certo che sì. Uno e trino, ha detto. No, uno e trino, esagero, ma neanche, come si dice a Torino, perché insomma la Trinità, lasciamo la cosa più seria di quanto io sono un modesto Zelig, cioè al massimo, diciamo, una specie di, cioè tento di rendermi utile nella impressione innanzitutto che sia rendere utile la vita a me stesso, dicendo qualcosa agli altri. No, sono molto d'accordo sulla cosa pubblico-privato, perché poi nella parabola della mia vita io sono cresciuto avendo in testa che il pubblico era la dimensione molto più importante. Quando ho iniziato a studiare, per me il diritto pubblico, per esempio il diritto penale, veniva prima del diritto privato e del diritto commerciale. Poi studiando e crescendo ho completamente cambiato idea. Per me le cose più importanti, un paese veramente civile è quello che ha un grande diritto privato e un grande diritto commerciale, poi la parte pubblica dello Stato viene dopo. Questo cosa significa? Però nella mia vita io vivo un paradosso, perché avendo cambiato idea sul fatto che il privato è più importante del pubblico, solo un privato civile da un paese civile più del pubblico che te lo impone, in realtà non sono mai riuscito nella mia vita privata a fare davvero la stessa cosa. Per cui per esempio io mi sono dovuto con gioia, ma tardi sposare a 50 anni, perché io senza mia moglie il privato non riuscivo a tenerlo in piedi. Quindi io nel 2012 dipenderò da un aspetto femminile perché il privato finalmente conti qualcosa nella mia vita, che altrimenti non c'era. E a quel punto sarai veramente perfetto. Non credo, anche perché per esempio su piacere e dovere, anche lì è una figura femminile fondamentale, perché nostra madre, dico mia e mio fratello, ci ha cresciuto con questa idea del dovere fortissima, inculcata non solo con le parole e col suo esempio, ma anche con parecchie mazzate che ogni tanto ci volevano nella vecchia maniera di istruire, sì, i figli. Adesso pare che non si usi più, però ai tempi di mia madre si usava e io ringrazio. Il problema è che questo accento doveristico così forte, così kantiano, per di più però con l'etica della colpa cattolica, e nella vita mi ha portato troppo al dovere e un pochino poco al piacere, perché io tendo su questa roba del piacere a dire sì, bello sì, che lo facciano gli altri, ma io non riesco fino in fondo, non ci riesco più forte. Quindi lavorerai anche su, non lo su so, io il privato ci lavorerò molto, aiutato. Sul piacere sono proprio impreparato. Ma secondo me il privato ti aiuterà, ecco, può essere che questa sia la grande scoperta, a esplorare la dimensione del piacere senza colpa, no? Certo, senza per chi è in ascolto e magari ha qualche anno in più come me, è molto piacevole sperare di tornare un po' ragazzi. Il piacere è associato con sé adolescenti piccoli, no? Invece l'idea di arrivarci a 50 anni è una grande prospettiva, tutto sommato, no? Certo, non si ha più quella vigoria fisica, in compenso c'è quella mentale. Dai. Allora, buon 2012, ma il sogno tuo del 2012? Il sogno mio del 2012 è molto privato, sarebbe una figlia, però. Dai. Sarebbe una figlia, quindi adesso io non dovevo dirlo sicuramente, però una bambina capace di contraddirmi e di mandarmi in tilt e di esercitarmi punendola severissimamente perché a quel punto naturalmente sulla punizione sarebbe respinta e diventerei anch'io uno di quelli che dopo aver passato una vita a spiegare agli altri come si fa con i figli perché loro commettono gli errori, finalmente la vendetta di tutti gli amici che direbbero hai visto che anche tu sei peggio di noi, ecco più o meno. Alberto, questo. Un commento. Ma mi sembra che si sia raccontato molto bene, che viene fuori l'Oscar Giannino pubblico e da una parte anche il sogno di un Oscar Giannino nel privato. Mi piace questa idea che non parla di un figlio in modo generico, ma parla di una figlia. E che naturalmente figlia per... significherà il contrario. Due gemelli maschi. Mamma mia, mamma mia. Comunque tanti auguri ad Oscar, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Pensate a chi siete in ascolto, il privato in greco nel V secolo si chiama idiotes. Noi pensiamo che l'idiota è l'imbecille, invece l'idiotes nella teoria del V secolo era perché era un privato, era un ricco, non stiamo parlando di chi non aveva i soldi, ma se si occupava solo di se stesso era un buono a nulla, perché altrimenti faceva parte dell'assemblea del Consiglio del 500. Adesso io penso invece che sia un po' sbagliato, però che noi continuiamo a chiamare idiota uno che era un privato ci dà l'idea di quanto lo Stato conti troppo. Questa è la verità. Un saluto a tutti. Grazie, buon 2012 ad Oscar Giannino, grazie per essere stato con noi. Alberto, tu ci sei ancora, ma in linea con noi abbiamo anche Luigi dalla provincia di Asti. Buongiorno Luigi, benvenuto. Buongiorno Nicoletta. Buongiorno. La ascolto sempre con piacere. Grazie. Anche quando mi alleno per le maratone, come sto facendo ora. Avevo appena finito l'allenamento, ascolto la radio sul cellulare e la sto ascoltando. Quindi ascolto. Io mi alleno con lei praticamente. Praticamente sì, ascolto il dottor Giannino, che tra l'altro è mio concittadino, perché io sono di Torino, certo. Anche se adesso vivo a Monbaruzzo. Mm? Allora, per ci sono gli amaretti a Monbaruzzo, vero? Amaretti, vino, funghi e tartufi. Ale, non ci risparmiamo nulla. Luigi, no, no. Buoni propositi? Allora, io, proprio in seguito al suo input... mentre mi allenavo tiravo le somme di quello che è l'anno passato e tasse a parte, ahimè, devo dire che sono soddisfatto, perché sono riuscito ad arrivare a un obiettivo che mi ero dato 5-6 anni fa quando ho incominciato a correre, sì. Purtroppo non da giovane, da anziano, sono riuscito ad arrivare a essere competitivo nelle maratone. Ho fatto la mia 17esima ad aprile e 18esima a novembre maratona, sì. E sono riuscito a prendere la medaglia d'argento della mia categoria in Italia ai campionati italiani. Quindi... Poi oltre a questo mi sto allenando per la mia 19esima maratona che farò alla fine di marzo a Barcellona, dove ci saranno i campionati europei, e conto, non dico di arrivare tra i primissimi, ma di arrivare tra i primi 10. Luigi! No, ma aspetti, non è finito. Sì. Nello stesso anno ho fatto anche 500 bottiglie di vino dalla mia nuova vigna che ho a Monbaruzzo. Sono le prime della nuova vigna. Sì. Che ovviamente stanno fermentando e imbottiglierò in primavera e mi berrò alcol i miei figli, i miei nipotini e alla salute di tutti. tutti. Grazie, ecco. Ci pensi allora Luigi, intanto continui ad allenarsi ascoltandoci, buon anno, sempre. Buon anno, grazie Luigi. Allora, Luigi ha fatto un po' il bilancio dei suoi propositi, è riuscito a fare centro, ha iniziato a correre, perché Alberto bisogna anche per fare dei propositi nuovi fare anche un po' i conti con quello che c'eravamo prefissi, no? L'anno scorso, per capire un pochino come siamo andati e tirare le somme, insomma Alberto. Penso che per raggiungere un obiettivo bisogna in realtà imparare a stilare un progetto e direi che la corsa finalizzata anche alla gara in questo senso è una bella metafora di quello che stiamo dicendo, cioè si può fondamentalmente correre per una pura dimensione di piacere nel momento in cui Luigi, il nostro ascoltatore, si è posto però l'obiettivo io voglio arrivare tra i primi. Quella che è una semplice passione, una dimensione di piacere, l'ha trasformata un po' anche in un mestiere, cioè in qualcosa che doveva fare con molta serietà e con molto impegno. E fondamentalmente lui ha raggiunto il suo obiettivo. Bravo, bravo Luigi, chissà quanti dei nostri ascoltatori vorranno intervenire raccontandoci dove hanno fatto centro e su cosa invece vogliono lavorare per il prossimo anno. 800 24 00 24. E per tirare un po' le somme con noi abbiamo in linea Paola Maraone, giornalista di Gioia, autrice di Era una brava mamma prima di avere figli, Rizzoli editore, da cui poi è nato l'omonimo blog. Paola, ciao. Buongiorno, ciao. Paola, grazie per essere con noi. A gennaio di quest'anno così scrivevi nel tuo blog. Smettere di mangiarmi le unghie. Questo ce l'ho in lista da 26 anni. Non ridurmi all'ultimo quando devo consegnare un libro, un articolo, una traduzione. Cambiare lavoro o posto di lavoro nel corso del 2011. Se non fosse che ormai è troppo tardi, avevo anche pensato di laurearmi in medicina. Curare i capelli e non andare sempre in giro come una che ha appena subito l'elettroshock. Andare in piscina 3 volte la settimana. Paola, poi tu continui, non bere mai più superalcolici, andare in bicicletta, curare le piante, vedere e sentire di più le amiche. Dove sei riuscita a fare centro? Quali di questi propositi hai realizzato? Dunque, dei primi 5 che abbiamo letto temo nessuno. Adesso per esempio ho per il 10 gennaio la consegna di una traduzione e non dirò a che punto sono arrivata per rispetto dell'editore che mi ha commissionato il lavoro, ma non ce la faccio proprio, non le dormi all'ultimo. Un'altra cosa che volevo fare era cambiare lavoro, non sono riuscita a fare nemmeno quello, però stanotte per combinazione ho sognato che lavoravo a Vanity Fair anziché a Gioia. E in effetti insomma il sogno era abbastanza realistico, poi mi sono svegliata e ho capito che non era vero. Sui capelli temo che sia una cosa costituzionale, insita nella forma del mio capello che proprio non ce la fa, quindi forse non lo metterò più in lista per l'anno prossimo. E sulla piscina ho raggiunto il 50% dell'obiettivo, diciamo che ci vado una volta e mezzo alla settimana, è già qualcosa. Tra i tuoi propositi c'era anche quello di uscire con Mike Delfino la sera una volta alla settimana? Sì, questo ce l'ho fatta abbastanza, complici i miei vicini che sono molto carini e disponibili e da cui adesso ho piazzato i pupi per fare questa breve intervista con voi, sì. Paola, allora, a proposito di bambini, un progetto da condividere con i figli per il 2012? Ah, questa è una cosa che davvero voglio fare, che consiglio a tutti i genitori. Si chiama Il gioco del pavimento, me l'ha suggerito un bravo pediatra. È molto semplice, consiste in questo: la sera quando tornate dal lavoro e arrivate in casa, se avete dei bambini piccoli, perché il pavimento ce l'abbiamo tutti, i bambini piccoli, alcuni sì, altri no, e sono in attesa. Funziona solo con i bambini piccoli, sì. Comunque si tratta di mollare tutto, borse, borsoni, giacche, cappelli, eccetera, e di mettersi a terra con i bambini a giocare proprio al loro livello, perché questi piccolini insomma in effetti sono lì, sono piuttosto bassi, e di restare con loro in questa posizione almeno per 5-10 minuti a farsi le coccole, a raccontarsi le cose, però in modo che loro percepiscano il nostro avvicinarsi a loro, insomma, che è anche una cosa fisica. E mi dice questo pediatra che è molto bello e che poi diventa un rituale divertente fin quando appunto non diventano troppo grandi per certo. apprezzarlo. Allora lo segneremo, anche questa è una buona idea, un progetto da condividere con i nostri bambini, come dice spesso il dottor Franco Confalonieri, medico sportivo che è spesso qua come nostro ospite, anche ritrovare il piacere di fare la lotta con i bambini. Grazie Paola per essere stata con noi, andremo a seguirti nel tuo blog. Grazie a voi, buon anno. Buona giornata. Agli uomini in generale manca la costanza nei propositi e ciò fa sì che le loro imprese quasi sempre rovinino. Il difetto di costanza si manifesta in due maniere, o col mutar di segno appena scelto o col mancare di coraggio alle prime contrarietà. Francesco Domenico Guerrazzi, politico e scrittore italiano, impegnato nel movimento risorgimentale. Alberto, come mai ci sono cose che vogliamo fare, che ogni anno ci riproponiamo di fare e puntualmente rimangono a metà o irrisolte? Dobbiamo cambiare proposito, dobbiamo cambiare qualcosa di noi? Ma direi simpaticamente Paola Maraone ce ne ha dato un esempio quando sperava di cambiare per sempre la conciatura dei suoi capelli e di averli sempre in ordine, cioè ci sono delle cose di noi che sono proprio immodificabili e ci sono dei progetti che noi possiamo perseguire ma che sono troppo lontani dalla posizione in cui noi ci troviamo, cioè bisogna in qualche modo aderire anche al principio di realtà. Solo i bambini sognano di essere onnipotenti e di poter volare oppure andare un giorno a visitare la Luna. Secondo me quello è proprio un primo aspetto, il puntare veramente troppo in alto e farlo in un modo che è totalmente lontano dalla realtà. D'altro canto il rischio è proprio che per paura invece di puntare alto, ma non troppo in alto, uno non si muova mai dalla posizione in cui è, quindi in qualche modo quello che lo psicologo potrebbe chiamare blocco fobico sta sempre lì per paura invece di fare un grande salto in una dimensione che non conosce bene, e proprio perché non conosce bene lo spaventa, ma che invece potrebbe tirare fuori da lui cose molto belle che uno neanche si immagina. Essere e benessere. Accade solo una volta l'anno, alla vigilia del nuovo anno. Va bene. Dove anche un momento di disperazione può diventare romantico. Lo scorso anno ho conosciuto una ragazza straordinaria. E stai per incontrarla, vero? Un proposito può diventare una rivelazione. La lista è lunga, meglio se cominci. I miei propositi per l'anno nuovo, se mi aiuti, ti regalo questi. 4 biglietti per la festa, hai scelto il tipo giusto. Proposito numero 2, colazione da Tiffany. Salute. Parlami! Parlagli! Perché? Per prenderti a schiaffi anche l'ultimo dell'anno? Sta solo facendo la cretina! Anche a me piace fare la cretina! Stiamo arrivando! Siete pronti con le trombette? Cominciamo! È questo il Capodanno? È questo! Dobbiamo fare qualcosa per tirarti fuori da questa depressione di fine anno! Organizziamola noi la festa! Compri un pezzo di pizza e magari incontri la donna della tua vita! Chi bacerai a mezzanotte? Sai come si chiama questa cosa? Follia totale? Pura casualità! Inizia a contare! Abbiamo appena, Deborah balla perché è qua scatenata, ma noi abbiamo appena sentito il trailer di un film che in questi giorni nelle sale, Capodanno a New York, che offre spunti molto interessanti per le nostre riflessioni a voce alta. Voi chiamateci e raccontateceli, perché dal sito della libreria Rizzoli ho selezionato due agende che voglio far arrivare a casa due di voi, l'agenda del piccolo principe e l'agenda del pensiero positivo. Alberto, dato che spetterà a te il compito di selezionare i nostri due ascoltatori, detta un po' anche le condizioni, se così vogliamo chiamarlo, meglio lancia la sfida. Ma direi proprio usiamo magari anche lo spunto del film Capodanno New York, che parte dall'immagine, proprio dalla storia di una donna che intorno ai 50 anni in realtà si sente proprio un po' arrivata al capolinea, la vediamo spenta di qualsiasi entusiasmo e decide il 31 dicembre di fare una lista rivoluzionaria per lei di 10 cose che avrebbe sempre desiderato fare ma che non si è mai sentita all'altezza poi di dover espletare, e in realtà nel pomeriggio del 31 dicembre con l'aiuto di un ragazzo riesce più o meno a fare tutto quello che c'era nella sua lista. Direi che la sfida che potremmo lanciare ai nostri ascoltatori è quella di provare a raccontarci un sogno che può trasformarsi in realtà, quindi di nuovo non un viaggio sulla Luna, che per la totalità di noi, certo, se non siamo astronauti, è impossibile, ma davvero un obiettivo raggiungibile che però è sempre rimasto un po' nel cassetto, un sogno, una fantasia, e che invece è necessario trasformare in realtà proprio per non avere quella sensazione di essere arrivati al capolinea. Allora abbiamo qua Deborah, mamma che potrebbe mia lanciarci lei il primo sogno che può trasformarsi in realtà, se vuoi, se no puoi affidarti alle nostre parole chiave. Privato, pubblico, fate voi, pensiero, fate voi. Emozione. Come ha fatto Oscar, mi affido completamente alle mani di Alberto, quindi oggi ha una grande responsabilità. Tracciare il profilo dei due conduttori. Vogliamo risentire queste parole? Sentiamole. Dai, la griglia, vai. Privato e pubblico. Dovere e piacere. Personale e sociale. Emozione e pensiero. Alberto? Tanto saluto Deborah, che è proprio, ciao, un'amica che adoro, e tutte le volte che la sento io corro subito a mettere due monetine nel salvadanaio. Vabbè, ma tu non lo fai per colpa mia, tu lo fai perché hai una famiglia numerosissima e fai bene, caro Alberto. E poi come progetto dell'anno nuovo devo seguire i tuoi consigli, io che ho un po' le mani bucate. Ecco, allora, cioè, anch'io. Va bene. Ma per questo anch'io, cioè, quindi siamo non tutti, è che sia come tutti, predico bene e razzolo male. Anche i nostri ascoltatori ci stanno scrivendo che si proveranno a tirare un po' la cinghia in modo, no, il serio. Problema è che ci imporranno di tirare la cinghia, per cui bene. Ma allora Alberto? Allora, per Deborah io direi tutti noi che l'ascoltiamo la immaginiamo proprio come una donna ultra organizzata, che ha una capacità molto razionale, molto logica di tenere sotto controllo, proprio un po' come si fa col bilancio, l'attivo e il passivo, tutte le voci. Mi dà l'idea, oppure ho solo la percezione, che il lavoro che fa la porti in un territorio che è molto cognitivo, molto di pensieri, quindi per Deborah potremmo immaginare un 2012 dove il sogno, il progetto da trasformare un po' in realtà è fare un viaggio dentro al mondo delle emozioni, immergendosi profondamente in quelle che magari o la spaventano di più, oppure... Ma la Deborah non ha paura di nulla, sì, però... Sì, vabbè, dai, di qualcosina ho paura anch'io. Ma Alberto, mi hai colpito molto in questa riflessione che hai fatto su di me, perché è vero, un po' colpa anche del segno zodiacale, sono una gemelli, sono una molto razionale, sono organizzata, è vero, e tra l'altro mi ha colpito anche molto la riflessione che faceva prima Oscar sul fatto che comunque in qualche maniera i genitori ti tramandano inevitabilmente, anche senza darti degli insegnamenti rigorosi con l'esempio, quello che poi sei, no? Io sono un po' Dr. Jekyll e Mr. Hyde, Alberto, perché voi lo sapete, perché a Nicoletta lo racconto molto spesso, ho una doppia vita fatta di esercizio fisico, di palestra, che mi piace molto frequentare, faccio anche delle cose un po' particolari che non si direbbero a guardarmi. No, tanto c'è un fisico scolpito. Ma non è per quello, però sono anche una pazzoide, perché mi diverto sullo step, faccio delle convention in giro per l'Italia con i miei amici, quindi effettivamente vivo, come dire, come se avessi due vite separate. Mi piacerebbe molto di più dunque esasperare la seconda parte della mia vita, quindi devo razionalizzare il tempo più che le scelte economiche e il denaro quest'anno. Quindi Alberto, colgo al volo il tuo suggerimento, che dici? Senti, direi allora che potrebbe proprio fare come fa la protagonista di Capodanno in New York: scrivere tre cose belle, ma veramente belle, che desidera fare nel 2012 e che fino ad oggi non ha fatto, e su queste cominciare a costruire un progetto. Sì, ti dico solo che inizio l'anno con la ristrutturazione di casa. Secondo te troverò il tempo per dedicarmi ai miei passatempi? Figurati, però farò una cosa bella, comprerò tre belle cose, spenderò molti soldi abbellendo, che brutto termine, rendendo insomma più divertente magari la mia abitazione. E poi voglio giocare molto sulle pavimento con i miei nipoti, mi è piaciuto tantissimo quel gioco. Bella, sì. Io già ci gioco tantissimo con loro, ma voglio esasperare anche questo lato tutti di zia patetica terra che sono. Grazie a Deborah. Grazie Nicoletta. Buon anno. Ma ti posso fare una domanda? I tuoi buoni propositi economici quali sono per quest'anno? Oddio. Che poi me li porto a salvadanaio. Allora, non ti mettere le mani nei capelli, io dai. Io non voglio pensarci fino al primo di gennaio, anzi ci penso il 9. Ecco, va bene, poi va ti porto a salvadanaio e me li racconti. Volentieri. Occhio allo spread, buona giornata. Occhio allo spread. Ciao, grazie a Deborah Rosciani. Abbiamo in linea con noi Donatella, che ci chiama da Reggio Emilia. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta, buongiorno agli ascoltatori. Niente, sentendo la vostra trasmissione, inevitabilmente anch'io ho fatto il mio bilancio del 2011, che sì, è molto, non è grigio, è nero, nel senso che io sono imprenditrice e quindi è stato un 2011, al di là del lavoro, molto nero, e i propositi per il 2012 sono innanzitutto pensare un po' più a me stessa, perché vengo classificata come una dura, come una forte, ma in realtà non è così. Sì. Per tenere questa facciata ho abusato col fumo, ho eccesso anche nel bere, sono ingrassata e niente, il proposito unico è quello di uscire dalla trappola dove a tutti i costi devo dimostrare che ce la posso fare sempre e comunque, quindi con i genitori, col figlio, con i clienti, con il lavoro, e facendo questo ho dimenticato che ci sono anch'io, quindi la mia parte interiore è quella che vorrei portarmi nel 2012 e avere la forza effettiva mia di innanzitutto smettere di fumare. Domani a mezzanotte fumerò l'ultima sigaretta, ci pensi, e poi ci, esatto, sono le nostre puntate in archivio che le daranno sicuramente una mano. Donatella, volevo leggere un messaggio di Nicoletta, di una mia omonima, che dice: il 2012 sarà l'anno in cui arriverò a compiere i 50 anni, piacere dovere, mi piacerebbe arrivare a compiere il dovere con piacere, mentre fino ad oggi prevale il dovere fino a se stesso, con vera rinuncia alla soddisfazione. Allora, questa è una direzione che ci dà anche Alberto, facendoci giocare con la sua griglia. Infatti dovere e piacere sono due parole che ritornano nella nostra griglia, Alberto. Ma sì, direi che proprio anche nel lavoro dello psicoterapeuta ci si rende conto che gran parte dei problemi in molte persone sono proprio generati da questo processo che noi chiamiamo di doverizzazione, cioè in qualche modo c'è una gerarchia di cose che devono essere fatte, che ci sono state tramandate dalla famiglia per tradizione, ma anche proprio per nostro senso di realtà, e che spesso però cancellano completamente un'area di realizzazione di noi che è invece molto più polarizzata sugli aspetti piacevoli. Cercare il bello nella nostra vita e trasformarlo in un dovere che noi dobbiamo a noi stessi, secondo me, per persone che si sentono molto affaticate, molto travolte, è un progetto necessario, e spesso uno per il bello a volte di nuovo fa un salto troppo grande perché pensa che solo un viaggio alle Maldive potrebbe regalare alla vita quel bello che invece va rincorrendo, invece dentro un libro, dentro un film, dentro una passeggiata nel bosco, dentro proprio quella metafora di 10 minuti sul tappeto che per molte donne lavoratrici con figli sembrano impossibili perché devi tornare a casa, metterti a cucinare, pulire eccetera. Trasformare invece proprio il dovere di stare con i nostri figli in qualcosa che deve essere fatto, e che nel momento in cui lo fai scopri quanto ti piace e quindi diventerà una meravigliosa abitudine. Ecco, dentro a questo piccolo, per esempio, progetto c'è una rivoluzione possibile per la vita di tutti. Intanto una piccola rivoluzione, e voglio leggervi un messaggio di Giuliana e Roberto da Trieste, che ci scrivono: mio marito ed io viviamo finalmente in barca a vela. Debora si è fermata, allora lo commento con lei prima delle informazioni sul traffico. Aspettiamo che il signor Monti ci dica quando potremo andare in pensione e mollare definitivamente gli ormeggi. Buon anno. Buon anno sì, buon anno, mamma sì. Che invidia e che coraggio. Essere e benessere. Eccoci qua, 800 24 00 24, bilanci, bisogna farli. In linea con noi abbiamo Alberto Pellai. Alberto, c'è una frase che noi abbiamo rubato dal film Capodanno a New York, che può aiutare i nostri ascoltatori a raccogliere la tua sfida nel scriverci o nel chiamarci per raccontarci la loro sfida, ed è: qual è la prima cosa che faresti se... Qual è la cosa, se tu sapessi e fossi sicuro di non fallire in quella cosa? Beh, allora esci, vai e falla immediatamente. E io l'ho trovata una frase bellissima, perché in realtà ci sono delle cose che noi sogniamo di fare, e quelle sono appunto puri sogni, ma ci sono delle cose invece che noi potremmo fare e invece abbiamo grande paura a fare perché non sappiamo a che cosa ci espongono. Ecco, in queste cose che noi potremmo fare ma che di cui abbiamo molta paura si nasconde probabilmente una grande verità per la nostra vita, una possibilità, l'opportunità di entrare in contatto con cose che la vita ci può dare, che ancora non conosciamo, e con trasformazioni di noi che sono lì dietro l'angolo. Direi che troppe volte, per la paura di fallire, noi inibiamo la nostra esplorazione di questi territori. Quindi 800 24 00 24, lanciatevi con i vostri propositi. Ricordo che due di voi potranno ricevere a casa l'agenda del Piccolo Principe e l'agenda del pensiero positivo, in collaborazione con la Rizzoli.it. Ma ci sono, parliamo di progetti, ci sono dei progetti che richiedono tempo, energie, competenze e fondi per essere realizzati. Penso ai progetti di ricerca. Dalla loro realizzazione dipende la salute di molti di noi. In linea con noi abbiamo la professoressa Adriana Albini. Buongiorno, professoressa. Buongiorno Nicoletta. Responsabile della ricerca oncologica all'Istituto Scientifico Multimedica di Milano. Professoressa Albini, che cosa ci ha portato il 2011? Il 2011 è stato un anno molto ricco di scoperte, di novità, e se vuoi ne racconto un po' qualcuna, perché è stata fatta, diciamo, un hit parade, sì, delle scoperte del 2011 dalla rivista Science. Magari te ne scelgo un paio di simpatiche. Sì, volentieri. Allora, iniziamo dalla scienza in protezione della nostra non andare più in pensione. Sì. La scienza, in quanto è stato scoperto che si possono rimuovere le cellule che invecchiano, si può in qualche modo quindi avere dei trattamenti di longevità, e quindi se andremo in pensione a 70 anni, come risulta adesso, potremo farlo sembrando delle 40 anni, si può tentare. Questa è una delle 10 cose. Poi molte sono relative alla salute, ad sì, esempio una cosa un po' più seria, la prevenzione della trasmissione dell'AIDS, che è stata praticamente la scoperta considerata più importante da Science, ovvero è stato scoperto che con dei farmaci antiretrovirali, oltre che curare, si può anche prevenire la trasmissione del virus. Quindi questa è una grande scoperta, un grande successo del 2011. È un grande successo. Poi si è scoperto, diciamo, dal punto di vista della nutrizione, che ci sono delle molecole nel nostro organismo, dei microbi che sono nostri amici e che aiutano molto, e sono diversi a seconda delle persone, a seconda di quello che si può mangiare, sì, e questo è stato messo, di solito la nutrizione è considerata un po' la Cenerentola, invece è stato messo proprio nelle top 10. Accanto a questo, secondo me è anche molto carino che è stato scoperto, secondo me, adatto a Capodanno, che la cioccolata può in qualche modo assorbire i grassi, quindi si può fare una dieta a base di cioccolata, non so bene come però la troveremo. Allora, progetto per 2012, e venga, torni a trovarci, ci racconti come possiamo mangiare cioccolata per dimagrire. Grazie, buon anno alla professoressa Adriana Albini, buonissima giornata. Anche a voi, ciao. Io ho in linea un amico, Alessandro? Buongiorno, ciao. Ciao, un amico che ho scoperto vive nella mia città, vive a Torino, voi lo conoscete sicuramente, lo vedete a Zelig, lo vedete spesso nel programma di Geppi Cucciari, Alessandro Fullin, comico, autore, scrittore. Come posso presentarti? Presentati tu. Ah, ma sai, noi artisti, per pagare l'IVA ogni tre mesi aggiungiamo altre carriere, capito? Quindi è scrittore, umorista, no? Idraulico, sai, noi per pagare l'IVA siamo pronti a qualsiasi cosa. E questo ti presenti adesso così nel 2011, ma nel 2012 come ti presenterai? Cosa combinerò? Sì. Mi sa dell'essere che, viste come stanno andando le cose economiche, aggiungerò altre 72 attività, cioè, che non lo so, mi metterò a raccogliere miele, mi metterò, non so, in salotto, seminerò dell'avena per avere i prodotti in casa. Continuerai a scrivere libri, ma il tuo romanzo Molto tempo dopo di te, Kowalski, è un successone, ho letto delle recensioni fantastiche. Ma sì, è piaciuto, sai, un giorno accendendo il computer, sai, c'è la recensione di Aldo Busi, ho detto, oh santo cielo, qui ho passato alcuni secondi di autentico terrore, e anche perché è il mio primo romanzetto, quindi insomma c'è anche una timidezza della prima volta, E invece Aldo Busi mi ha ricoperto di complimenti, ha detto, ah no, è un libro umoristico, scritto molto bene, un libro di genere naturalmente, non è che è un libro che apre prospettive nuove per la letteratura italiana, è un libro di genere, è un libro umoristico, strano, un libro strano per l'Italia. Questa sì, perché tu hai avuto una pensata, ho letto che tu non volevi insomma fare un libro troppo italiano, allora hai deciso? Sì, ho deciso di far morire la mamma a pagina 2, così già siamo tranquilli, già dell'essere, no, non sembra già più italiano, infatti sembra scritto, sembra un libro tradotto, se tu poi vedi Alessandro Furlin, ma se tu non vedessi il nome dell'autore, sembra scritto, non so, da una lesbica di Bruxelles, cioè da un personaggio assolutamente surreale, sembra un libro tradotto, non sembra un libro di un italiano, anche perché io ho un immaginario. Io sono nata a Trieste, sono stato a Torino, quindi frequento, come vedi, tutto l'arco alpino. Pino, quindi siamo sempre avanti, Andrea. Siamo a cavalcioni sulle Alpi, quindi guardiamo anche dall'altra parte, abbiamo una sensibilità un po' particolare. Ma dall'altra parte delle Alpi, immaginando che le Alpi siano un po', no, una barriera tra il 2011 e il 2012, che qual è il tuo sogno per il 2012? Nel 2000 vorrei una casa più grande, ne ho comprata una a 58 metri quadrati che è stato per me l'avvenimento della mia vita, perché ho sempre desiderato di avere una casa e l'ho comprata a Torino, dove le case costano la metà che tutto il nord Italia, perché è una città molto popolare e quindi ci sono delle case molto vecchie, molto così, con quello stile. C'è molto fine 8, inizio 9, quindi la mia casa del 1930, che sono quelle case che io adoro. Però ne vorresti... Però adesso ne vorrei una un po' più grande per avere la stanzetta dove metto la ciclette. No? Sai che quando di solito sei una signora di una certa età e hai bisogno di fare quella mezz'oretta di ciclette? E allora ecco, vorrei... arrivare ai mitici 75 metri quadrati, che per un uomo solo è veramente un lusso sfrenato. Lusso. Senti, ultimo giorno del 31 sarai in teatro, lavori. Quindi lavoro, chi inizia, ecco, chi inizia lavorando, com'è che si dice? Chi inizia lavorando? Sì, speriamo. Che porti buono, eh? Assolutamente, che siamo, ma speriamo che porti a tutti, porti bene, dai. Di coraggio a tutti gli italiani, perché ci aspetta un 2012 che siamo tutti con l'elmetto. Ma noi ce la faremo, Alessandro, io sono sicuro. Dai. Un popolo della secchi, secondo me, c'è un po' disciplinato questa crisi, secondo me ne usciremo, secondo me, migliori. Io lo credo veramente. Alessandro, grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Buon tutto. Tanti auguri a tutti. Grazie. A te e a tutto il pubblico che ci segue. Grazie ad Alessandro Furlin. Alberto, siamo quasi in chiusura. Abbiamo Angelo da Napoli, se ci racconta brevemente. Angelo, buongiorno. Buongiorno Nicoletta, per me è un giorno fortunato perché posso sentirvi e parlarvi. Oh, ma questa mi scalda il cuore, no. Angelo, che ci dice? Senti Nicoletta, il mio sogno è quello di poter acquistare una fattoria dove poter vivere con i miei figli e i miei fratelli. Questo è un bel sogno. Io direi, Alberto, che possiamo dare al nostro amico Angelo da Napoli l'agenda del pensiero positivo. Eh sì, mi sembra un sogno che speriamo si traduca in progetto e quindi in realtà. E direi che era molto bello anche il progetto di Donatella, quella di pensare al 2012 come un anno in cui reinventa e ricostruisce. Allora, anche a Donatella intanto faremo ricevere il libro dell'agenda del Piccolo Principe. Grazie ad Alberto, grazie a voi, buon anno, buon fine anno, un abbraccio da Nicoletta Carbone. Essere e benessere.